in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli. Abbiamo proprio solo un minuto e lo dedichiamo, prima della prima pausa sul traffico, lo dedichiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che come anche altri giornali si concentra sull'esito dell'incontro di cui avevamo parlato anche ieri, che c'è stato ieri, è finito in tarda serata tra i ministri francesi e quelli italiani sulla questione dell'acquisizione da parte di Fincantieri dei cantieri francesi STX, che sappiamo è finita sostanzialmente con un nulla di fatto, perché i francesi non hanno accordato quel 51 o più per cento del controllo della quota di azionaria, e quindi è tutto rimandato al prossimo vertice che si terrà alla fine delle imprese, alla fine di settembre. Molto interessante l'articolo di Roberto Darin, che guarda la questione venezuelana dal punto di vista economico, la grande fuga delle imprese italiane dal Venezuela sull'orlo della crisi della guerra civile. Ci lasciamo però, come vi dicevo, subito per la pausa sul traffico. In primo piano. Eccoci, rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Vi segnalo sulla questione Fincantieri l'analisi di Carlo Marroni, che si intitola Vertice post-elettorale, perché la data del vertice in cui forse si deciderà qualcosa di nuovo rispetto a quello che non si è deciso ieri è il 27 settembre. Cioè 3 giorni dopo le elezioni tedesche del 24 e 3 giorni dopo le elezioni del Senato francese, quindi è molto importante questa vicinanza di date. La prima pagina del Corriere della Sera ha un virgolettato, è il virgolettato del ministro Padoan, il nostro ministro dell'economia: cantieri, l'Italia non cede. E la fotonotizia però è dedicata a quello che è successo ieri a Malpensa e a Linate, i due principali aeroporti milanesi. Come avete sentito probabilmente nei GR, c'è stata un'assemblea spontanea, cioè che non era stata annunciata, di lavoratori della CGIL, CISL, iscritti alla CGIL, CISL, UIL, ma probabilmente non necessariamente iscritti ai sindacati. Questa assemblea straordinaria si è tradotta di fatto in uno sciopero che poi è stato interrotto quando l'ANAC, l'autorità per il traffico, l'autorità per la regolazione del traffico aereo, ha consentito a far slittare il provvedimento contro il quale i sindacati protestavano, cioè l'entrata di alcune cooperative in subappalto per i servizi di handling negli aeroporti, che sono sostanzialmente il check-in e tutta la gestione dei bagagli in entrata e in uscita. Quindi a chi dice che gli scioperi a volte non servono, purtroppo questo ha avuto una sua efficacia, il che forse incoraggerà altri sciagurati scioperi di questo genere. Dico sciagurati perché naturalmente c'erano persone che dovevano partire per le vacanze, hanno atteso anche 7-8 ore in aeroporto. Penso magari a quelli che hanno una sola settimana di vacanza, un giorno direi che fa una bella differenza. Si scopre però anche che in effetti l'entrata di queste cooperative nei subappalti del handling peggiorerebbe di molto le condizioni di lavoro attuali, e si scopre anche che lo stipendio medio di un lavoratore del handling aeroportuale non arriva a 1.200 euro. Quindi la protesta probabilmente è giustificata, ma c'è sempre, in questo modo forse perdono un po' tutti. La Repubblica anche qui si focalizza sulla questione Fincantieri, l'offerta di Parigi alleanza sulle navi, un'offerta che è stata rifiutata di fatto perché sembra un po' che il ministro dell'economia francese abbia cercato di indorare un po' la pillola del fatto che la Francia non ne vuole sapere di cedere più del 50% dei cantieri STX, quindi un controllo effettivo, però l'ha un po' indorata, appunto come se fosse una grande compagnia europea. L'Italia non si muove di una virgola, come abbiamo visto, però è tutto rimandato al 27 settembre. La fotonotizia della Repubblica è dedicata al terribile fatto di cronaca di cui avete sentito parlare anche nel GR: una ragazza di 21 anni uccisa dal fidanzato, che ne aveva parecchi più di lei. Qui trovate la cronaca a pagina 17 e poi un'analisi, come sempre, molto interessante di Michela Marzano, filosofa, ex deputata del Partito Democratico, e dopo ne leggeremo un pezzo, trovate anche quella a pagina 17. Il Messaggero, titolo diverso perché avevamo già accennato ieri all'esame che sta facendo la Corte dei Conti su una serie di enti pubblici, tra cui per esempio la Camera, quindi abbiamo visto come sta esaminando la situazione pensionistica dei dipendenti della Camera e del Senato, ma sta esaminando anche i conti di Roma. E allora ecco che oltre alla Corte dei Conti c'è il Tesoro, boccia i conti di Roma. Il governo convoca il Campidoglio a settembre, errori su salari accessori e piano di rientro. E in tutto questo, scrive il Messaggero, Giunta Raggi senza pace, perché come avete sentito l'assessore al bilancio Mazzillo ha rimesso la delega al patrimonio perché avrebbe letto su una chat che comunque il sindaco Raggi stava già pensando di togliergli alcune deleghe o magari anche di sostituirlo, e lui possiamo dire ha giocato d'anticipo. La Stampa, STX, l'Italia non cede a Parigi ma spunta un compromesso. Questa idea appunto che si possa trovare una forma giuridica che dia l'idea di una gestione paritaria, però per ora dall'Italia a questa ipotesi che è tutta francese c'è stato un secco no. La fotonotizia diversa da tutti gli altri giornali è una foto scattata in Turchia, perché a Istanbul migliaia di donne hanno protestato contro la spinta conservatrice del governo indossando la minigonna, che è da sempre un po' il simbolo, non, magari quando fu inventata, dove sembrò semplicemente una trovata della moda un po' irriverente per l'epoca, erano gli anni 60, adesso però è un simbolo, tanto che appunto lo slogan di queste donne che hanno protestato, vengono chiamate le ragazze anti-Erdogan, è non diteci che cosa indossare. In prima pagina sulla Stampa anche quello che viene definito l'orrore a Udine, il riferimento è alla ragazza di 21 anni uccisa con la confessione dopo 11 ore in cui l'assassino l'ha portata in macchina in giro e poi si è presentato alla polizia e ha confessato ha detto l'ho fatto perché mi voleva lasciare. L'Avvenire ha un'apertura diversa, Libia si inviano navi, si raccolgono morti. Il riferimento è, lo sapete, a questo nuovo corso delle politiche nel Mediterraneo, il modo in cui l'Italia e in generale l'Europa affronta l'emergenza e immigrazione dalla Libia. Sappiamo che l'unico corridoio aperto in questo momento è quello del Mediterraneo. Da una parte c'è l'idea appunto di fare un maggior uso delle navi militari per bloccare le navi dei trafficanti, e però si raccolgono morti, scrive l'Avvenire, perché ieri sono stati trovati 8 cadaveri su alcuni gommoni soccorsi dalle ONG, come vuole che io dica uno dei nostri ascoltatori. Tra l'altro ringrazio tutti già per i messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp. La fotonotizia però dell'Avvenire è diversa e parla dello sfruttamento nei campi di Latina, sia di operaie italiane sia di richiedenti asilo. Anche ieri abbiamo parlato dello sfruttamento in questo periodo, soprattutto nei campi, degli immigrati, del fenomeno terribile del caporalato contro il quale è stata anche varata una legge. Ma purtroppo le inchieste dicono che per ora la legge non ha avuto gli effetti sperati. Vi segnalo anche la Gazzetta dello Sport, soprattutto per i tifosi di Milan e Inter, perché la Gazzetta fa quello che lei stessa definisce il gioco dell'estate, cioè chi è più forte tra Milan e Inter, e c'è tutto il confronto. Secondo la Gazzetta, rossoneri avanti di una lunghezza, pesano Donnarumma, naturalmente il super portiere, e la difesa che si è molto rinforzata, soprattutto con Bonucci. Mentre sull'Inter scrive: i nerazzurri oggi dispongono dell'attacco migliore per Icardi, centrocampo equivalenti, Spalletti, l'allenatore, valore aggiunto. Ecco il gioco dell'estate della Gazzetta. Il Giornale, politici già in vacanza, salta il taglio ai vitalizi. Il riferimento è al fatto che non è stata approvata la procedura d'urgenza per esaminare la proposta di legge presentata dal deputato del PD Richetti, la riforma dei vitalizi, cosiddetti vitalizi. Poi anche qui, se andassimo bene a vedere, si potrebbe obiettare che comunque, anche fosse passata questa procedura d'urgenza, poi sarebbe slittato comunque l'esame, quello che poi vale l'approvazione o o la non approvazione di questa legge sarebbe slittata comunque a settembre, ma è il tipico caso in cui il Movimento 5 Stelle giustamente lo sottolinea, è era una questione formale che per chi davvero vuole far passare questa legge forse era un'occasione da sfruttare, mentre c'è stata una bagarre in aula con il Partito Democratico e altre forze politiche che evocavano i massimi principi per giustificare questo slittamento, questa mancata approvazione da parte del Senato della procedura d'urgenza che chiedeva invece il Movimento 5 Stelle. Fotonotizia dedicata a Giletti, poi leggeremo una parte dell'intervista che Giletti ha concesso al Corriere della Sera, perché pare ufficiale il suo passaggio dalla RAI alla 7, dove porterà il format praticamente identico del suo talk show L'Arena. La verità, vitalizia e Marchetti in Parlamento buttano soldi anche per Gramsci. Anche in questo caso lo spunto è l'imminente chiusura del Parlamento, quindi della Camera e del Senato, per i 40 giorni di ferie. Che cosa si è stato rinviato l'esame della legge antiprivilegi, e però sottolinea il giornale, si è trovato tempo per altre cose, per esempio appunto alcuni provvedimenti in favore delle lobby, da qui il termine Marchette. E un po' lo stesso è il Fatto Quotidiano, che titola "Salvano gli stalker e i vitalizi e prorogano l'appalto truccato. Ultime vergogne di governo e maggioranza prima delle ferie". Lo spiega in 4 punti sulla prima pagina il Fatto. Primo, quindi, lo stalking. Orlando non modifica la norma che permette agli ammessori di pagare un'ammenda e farla franca. Sempre sullo stalking, Palazzo Chigi ricorre contro i figli di una donna uccisa dal marito per non risarcirli dell'inerzia dei giudici, un fatto già di qualche anno fa, ma che appunto è sicuramente una questione di stalking, perché la vicenda in breve è che questa donna aveva denunciato più volte il pericolo che secondo lei rappresentava il marito, che poi l'ha uccisa, e i figli hanno fatto causa, ma ieri Palazzo Chigi appunto ha fatto ricorso contro la decisione che imponeva un risarcimento ai figli di questa donna uccisa. Poi sui vitalizi, il DDL Ricchetti, approvato in gran pompa alla Camera, rinviato a settembre in Senato per il no del PD al Movimento 5 Stelle. E sulla questione Consip, la centrale degli appalti, nel decreto Sud licenziato ieri torna la proroga della gara sulla pulizia scolastica, già bocciata dall'ANAC, l'autorità per la corruzione. Libero parla della questione, un po' in realtà mette molte questioni insieme sotto questo titolo: il nostro governo non conta niente, Medici Senza Frontiere fanno di testa loro per salvare i migranti, riferimento al fatto che Medici Senza Frontiere non ha firmato il nuovo protocollo riservato alle ONG che regola il modo in cui possono operare per portare soccorso agli immigrati. La Francia si impone, noi caliamo le braghe, la Germania non ci ascolta neppure, l'Europa ci considera una pattumiera, Gentiloni pensa solo a punire i poliziotti con la legge antitortura, i provvedimenti importanti non passano, quelli dannosi si approvano in fretta. Fallimento totale. Più interessante, secondo me, di questo elenco così pessimistico è l'inchiesta di Azzurra Noemi Barbuto, che poi trovate a pagina 4, "Così i cinesi colonizzano l'Africa". Vi segnalo poi, come ho fatto ieri, le pagine di alcuni quotidiani stranieri. Da una parte la Faz, che devo dire sembra un po' ossessionata da Donald Trump, torna sulla questione della testimonianza che Donald Trump avrebbe scritto per il figlio sulla questione degli incontri con il governo russo, con gli esponenti del governo russo, ma trovo interessante questo sondaggio, perché la maggior parte dei tedeschi chiede misure più punitive ai colossi dell'auto per sostanzialmente tutti gli scandali collegati al Dieselgate, e vedremo che anche su altri giornali si dà conto di questo caos che c'è in Germania in questo momento sulla questione appunto dei colossi dell'auto, che forse lo avete sentito anche nella rassegna stampa internazionale che abbiamo fatto sabato, comunque stanno rischiando altre multe, anche perché avrebbero fatto cartello su alcune questioni che riguardano sempre le regole sulle emissioni dei motori diesel. Molto interessante l'apertura di Le Figaro, perché poi in Italia oggi è soltanto l'Avvenire a citare questa data. Oggi è mercoledì 2 agosto ed è il giorno, in inglese, sulle Figaro non c'è traccia del termine francese, inglese, ma in inglese si chiama Overshoot Day, cioè oggi è da oggi, quindi non siamo, abbiamo da poco più di un mese superato la metà dell'anno. Da oggi il pianeta però è già in deficit di risorse, cioè da oggi in poi dobbiamo consumare delle riserve. Le Figaro titola proprio su questo. Poi naturalmente c'è anche la questione dei cantieri. Non viene presentata come una vittoria della Francia, perché di fatto è stato un nulla di fatto, come abbiamo sentito. Ci fermiamo però un attimo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Ha ragione l'ascoltatore, su qualche giornale c'è una pagina dedicata a questo, il 2 agosto, per l'ascoltatore è Paolo da Bologna. Il 2 agosto è naturalmente l'anniversario della terribile strage di Bologna. E ci sono, purtroppo sappiamo che ci sono ancora tante domande a cui rispondere sulle responsabilità di quella strage e sugli autori materiali. Eravamo però sulle pagine di alcuni quotidiani stranieri. Vi ho segnalato Le Figaro e la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il giornale più serio che c'è in Germania. Il Guardian invece è un quotidiano britannico che tra l'altro ha un sito completamente gratuito, che è anche il più visitato sito di notizie in lingua inglese. Anche il Guardian sembra un po' ossessionato da Trump, qui però oggi c'è anche un'intervista a Trump dove parla dei rapporti con il Regno Unito. Poi c'è un'intervista a Usain Bolt, che sappiamo è a fine carriera, e parla soprattutto di doping e dice: spero che non soltanto ci siano regole più stringenti e soprattutto più rispettate, ma spero che siano gli atleti stessi a capire che il doping rovina lo sport. Il New York Times invece, anche il New York Times si dedica a Trump, ma una delle tante inchieste che il New York Times sta facendo su Trump scopre che in molti provvedimenti si vedrebbe chiaramente un pregiudizio di questi provvedimenti verso i neri, e con l'introduzione di alcuni provvedimenti nelle università che indeboliscono un po' quella politica che negli Stati Uniti viene definita affirmative action, che è una serie di misure che negli anni poi si sono modificate, hanno preso tante forme diverse, di imporre, noi le chiamiamo per esempio, noi abbiamo le quote rosa, di imporre certe quote per esempio di studenti di minoranze, in questo caso per esempio di neri, di imporle proprio al di là delle classifiche, dei test, per avere di fatto, prima che magari si evolva comunque verso un ambiente più diversificato, avere di fatto tutte le minoranze rappresentate per esempio in un corpo universitario degli studenti o degli insegnanti. Vi dicevo dal Sole 24 Ore, la grande fuga delle imprese, a pagina 5, come racconta Roberto Darin e Matteo Meneghello, raccontano come tante aziende italiane, alla luce dei pericoli che inevitabilmente ci sono quando un paese sprofonda nel caos politico che rasenta la guerra civile come il Venezuela, molte aziende italiane sono andate via o hanno sospeso l'attività. Un aggiornamento sulla questione dell'Agenzia del Farmaco Europea. Sapete che aveva sede a Londra, con la Brexit è una delle tante istituzioni europee che dovranno traslocare, lasciare Londra. Milano si è candidata, ci sono però altre 18 città che si sono candidate, tra le quali per esempio alcune città in Germania e in Spagna. Secondo Lancet, che è la più autorevole rivista medica scientifica in lingua inglese, Milano è la giusta candidata, però insomma vedremo come finirà. Poi vi segnalo, siamo alla terza puntata dell'agenda del professionista, trovate tutto a pagina 16 del Sole 24 Ore all'interno del dorso di norme e tributi. Regole antiriciclaggio, dal 4 luglio infatti c'è una nuova disciplina, quindi da circa un mese, filtro degli ordini e sanzioni più pesanti, tutti i dettagli a pagina 16 del Sole 24 Ore. Vi dicevo, l'intervista di Massimo Giletti a Paolo Conti, che è il giornalista che al Corriere della Sera si occupa di televisione soprattutto, a Massimo Giletti. Già il titolo: non potevo abdicare alla dignità. Addio Rai, rifarò l'Arena sulla 7. Volano paroloni. La dignità. Io non so quanti di voi, probabilmente tanti, perché gli spettatori di questa trasmissione sono tanti e ha uno share del 22%, che è tanto per la sua fascia oraria. Dicevo, non so quanti di voi l'hanno vista, però ecco, che sia parlare di dignità o che questo sia il giornalismo più televisivo più importante, come sembra credere Massimo Giletti, che dice anche che il suo programma dava fastidio, insomma, forse è importante come uno se la racconta. E vi leggo questa domanda di Paolo Conti. Il direttore generale della RAI, Mario Orfeo, ha detto spesso che lei non ha risposto all'offerta dell'azienda. 12 prime serate il sabato sera, il reportage dei fronti dove sono impegnati i contingenti italiani. E lui risponde: ma io avevo un accordo con l'ex direttore generale Antonio Campodall'Orto per continuare a fare l'Arena più alcune prime serate importanti. E quindi non gli va bene quello che gli hanno offerto, vuole assolutamente fare la sua Arena Massimo Giletti, quindi se ne va piccato. L'altra questione, sappiamo che anche qui secondo me andrebbe un po' ripensata, al di là degli slogan, quando si dice: ah sì, il programma costa X milioni ma porta X più 1 milioni in pubblicità. A parte il fatto che si può sempre discutere del fatto che un programma di una rete pubblica che noi finanziamo soprattutto con il canone abbia così tanta pubblicità, e poi soprattutto sappiamo che più pubblicità fanno le aziende, più cari diventano i prodotti che vendono, quindi il vantaggio vero è apparente solo nei numeri, poi si potrebbe sindacare se sia davvero un vantaggio per tutti i telespettatori che devono sorbirsi gli spot e i consumatori che devono poi fare i conti con prezzi magari ritoccati proprio perché salgono i budget pubblicitari. In ogni caso, Paolo Conti, lo stuzzica Giletti su questa questione, gli chiede: il sito Spot & Web calcola il suo valore pubblicitario in 8 milioni di euro. Ma Giletti risponde: ma mi sembra una stima riduttiva, bisognerebbe calcolare bene i grandi eventi serali che abbiamo realizzato, anche Venerdì 4 andai in replica con quello con Zucchero, vedo che per alcuni gli spot valgono, pesano, per altri no. Lui, Paolo Conti, sta pensando a Fabio Fazio? E lui risponde: in generale, un criterio o vale per tutti o per nessuno. E così rivedremo l'Arena di Giletti sulla 7. Già ieri il Corriere della Sera dedicava un approfondimento allo spaccio di droga, soprattutto quando quando gli spacciatori si rivolgono ai ragazzi più giovani. Lo spunto naturalmente era il terribile fatto di cronaca accaduto tra venerdì e sabato con la morte di una ragazza di 16 anni a Genova. Il reportage di oggi, sempre di Andrea Galli, sempre da Milano: i ragazzini pendolari nel bosco dello spaccio per l'eroina low cost. Succede nell'area di Rogoredo, che è appena fuori Milano. Poi vi segnalo, questo è sul Corriere della Sera, è nelle pagine della cronaca di Milano, però lo trovate su altri giornali, in particolare ho segnato Libero, invece nelle pagine nazionali, ed è la questione della riforma della sanità in Lombardia. Perché dico, la segnalo comunque, credo che interessi anche ai non lombardi. Sappiamo che la sanità in Italia è gestita in maniera federale, in un certo senso. Però, primo, perché è la regione con il PIL più alto, e poi perché comunque questa riforma, visto che di riforma sanitaria c'è bisogno probabilmente in tutta Italia, potrebbe fare scuola. Allora, c'è stato un referendum dell'assessorato alla sanità regionale tra i medici, e il risultato è che i medici milanesi hanno bocciato la riforma. Sono contrari 7 su 10. Una delle questioni principali è il cosiddetto subappalto di tutti i malati cronici, che sono in generale quelli che hanno diritto, proprio perché le loro malattie sono croniche, a una serie di esenzioni, ad altri gestori, sempre sanitari naturalmente, sempre operatori sanitari, che così lavorerebbero sotto un budget e non senza limiti di budget. Questa è soltanto una della parte delle riforme. In ogni caso, i medici di famiglia appunto soltanto, soltanto una minoranza ha approvato questa riforma. Tra l'altro è una riforma che interessa appunto non solo Milano ma tutta la Lombardia, e questa questione dei malati cronici non è da poco, perché pensate che sono più di un milione nell'area metropolitana e quasi 500.000 solo in città. Dicevamo, la ragazza uccisa a Udine, uccisa dal fidanzato, la strage senza fine delle ventenni. Vi leggo la prima parte del commento di Michela Marzano. Le amano e poi le ammazzano. Anche se sono ancora molto giovani, poco più che ventenni, e avrebbero tutto il diritto di conoscere uomini diversi, innamorarsi di nuovo, vivere altre storie d'amore. È quello che è successo in questi ultimi giorni, prima alla 22enne Alba Chiara Baroni, poi alla 21enne Nadia Orlando. Entrambe sono state barbaramente assassinate da chi pretendeva di amarle e che invece, non sopportando l'idea di perderle, è pian piano passato dall'affetto alla gelosia, dalla gelosia all'ossessione, dall'ossessione alla violenza. Cosa sta accadendo ad alcuni uomini? Quale frattura identitaria li rende così fragili e al tempo stesso così pericolosi? Come possono immaginare che la vita di una ragazza possa appartenere loro, privandole prima della libertà e poi della stessa esistenza? E vi leggo l'ultima parte. Crescere e maturare significa imparare questa semplice e banale verità. Le persone non sono semplici cose di cui disporre come ci pare. È drammatico che tanti uomini oggi non riescano né a capirlo né a farsene una ragione, arrogandosi il diritto di strappare la vita a chi quella vita dovrebbe poterla avere ancora tutta davanti. E tra l'altro, in questa idea del considerare le donne una cosa e quindi che si può anche possedere, siamo purtroppo, ci avviciniamo purtroppo molto all'idea che una parte dei musulmani hanno dei rapporti tra uomini e donne. Quindi in un momento in cui si dice che la cultura occidentale sulla questione, per esempio, dell'emancipazione femminile è molto avanti rispetto a quella dell'Islam più radicale, teniamo sempre presente questi fatti di cronaca. Tra l'altro, io non mi piace la parola, ma così, questo proprio, ma ci sono tante parole che non mi piacciono perché non mi suonano particolarmente bene, ma trovo che sia assolutamente legittimo l'uso della parola femminicidio, che so che invece viene da alcuni contestato. Naturalmente trovate molti approfondimenti sulla questione del Venezuela su tanti giornali. Vi segnalo però, e questo si lega un po' a Donald Trump, che sapete si è tirato indietro sull'accordo mondiale sul clima che era stato firmato a Parigi quando c'era ancora Obama alla Casa Bianca, e una delle ragioni che lui ha detto è: gli Stati Uniti non possono seguire queste regole così dure se poi ci sono paesi come la Cina e l'India ancora in fase di forte sviluppo che inquinano così tanto. E è interessante quindi poi andare a vedere per esempio la questione delle auto elettriche. Si scopre da un'analisi, dalla più recente analisi su questo comparto dell'automotive, che nel 2017 le vendite sono vicine a una soglia simbolica di 100 milioni di auto elettriche vendute. A trainare sia le vendite che l'innovazione, perché sappiamo c'è ancora molto da fare, hanno poca autonomia le auto elettriche pure, non le ibride, sono i paesi emergenti, più elettriche cinesi. Quindi in Cina sono state 509.000 le auto elettriche, sono ancora meno del 2%, ma cresceranno per effetto delle norme imposte dal governo, e comunque sono già più di quelle che circolano negli Stati Uniti. Vi segnalo un'ultima segnalazione sulla questione legata in ogni caso a tutto il rischio geopolitico che c'è e che riguarda l'Africa, come vi dicevo anche l'inchiesta sul Libero di come i cinesi hanno di fatto colonizzato economicamente l'Africa. È un interessante articolo di Roberta Amoruso sul Messaggero, pagina 7, la partita sul gas e il greggio, il tesoro del petrolio libico, Eni difende i suoi contratti. L'Italia controlla quasi tutti gli impianti, ma i gruppi stranieri vorrebbero entrare. Ci fermiamo un attimo per la seconda pausa sul traffico. Niente, non c'è ancora. Allora continuiamo dalla stampa. Abbiamo sentito parlare spesso in questi giorni dell'attivismo dei partiti in Sicilia. Perché? Perché in Sicilia si vota per le elezioni regionali il 5 novembre, quindi sarà di fatto il primo test elettorale, poi dovrebbero esserci le elezioni politiche nella primavera del 2018. E da qui molti appunto si stanno cercando di di muoversi in anticipo sulla Sicilia. Il problema, per esempio, è che il PD in Sicilia non ha un candidato e da qui Renzi sbarca in Sicilia in cerca di un candidato. Il PD tratta con Alfano un'alleanza per le regionali, ma il ministro vede il coordinatore di Forza Italia. E viene ricordato l'ultima elezione, quella del 2012, in cui Rosario Crocetta, l'attuale governatore, venne eletto con il 30,48% dei voti. Questo mi ha sorpresa perché ne avevo sentito parlare Enrico Pagliarini sabato, credo al sabato del villaggio, la questione del roaming. Sapete che è entrato in vigore il roaming all'interno dell'Europa, quindi ormai non abbiamo più questo incubo di essere in Francia magari e sapere che spenderemo molto di più per il telefonino, le tariffe sono le stesse che ci vengono applicate in Italia. Attenzione però al traghetto, perché sul traghetto c'è una... lo spiegava appunto anche Enrico Pagliarini, c'è un ripetitore autonomo e quello non rispetta questa nuova legge sul roaming. E quindi sul traghetto e all'estero, attenti alle sorprese mangiasoldi. Pagina 8 e 9 della Stampa. Ora però sentiamo gli aggiornamenti sul traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, non tutti lusinghieri, ma non importa, va bene così, al 349-238-6666 o sms o whatsapp. La questione Giletti solleva qualche reazione accalorata, possiamo dire così, per esempio c'è un ascoltatore che dice di dire a me che sarei una pseudo giornalista, che Giletti è stato cacciato e non se n'è andato. Non lo sapremo mai, credo, se è stato cacciato, anche perché bisogna intendere che cosa vuol dire essere cacciati. Per esempio, appunto, magari una trattativa finita male può essere interpretata in questo modo. In ogni caso vedremo la nuova arena di Giletti sulla 7. Dalle pagine dell'Avvenire vi segnalo una bella notizia: un piano regionale varato in Lombardia per recuperare il cibo. Si parla spesso dello spreco di cibo, è stata anche varata una legge quest'anno che agevola, se vogliamo, la possibilità, perché c'è sempre, come sempre in Italia, un problema burocratico per recuperare il cibo o per esempio quando si è molto vicini alla scadenza di alcuni cibi, riuscire a darlo con magari condizioni agevolate a mense dei poveri o ad altre ONG. Ora appunto questo piano regionale in Lombardia prende forma, sono stati stanziati 1,6 milioni da indirizzare a enti del terzo settore. Il progetto copre il biennio 2017-2018 e naturalmente resta, viene sottolineato, il rischio burocrazia, però c'è una maggiore organicità. Abbiamo parlato nei giorni scorsi, ho citato alcuni articoli sulla questione delle carceri, anche domenica scorsa, per esempio di progetti culturali che ci sono all'interno delle carceri, sempre con lo scopo di cercare di trovare una parte positiva nella detenzione, quindi per esempio riuscire in qualche modo a riabilitare i detenuti in modo che quando vengano scarcerati diminuiscano le recidive. E la verità oggi ha dei dati inquietanti: le prigioni come polveriera. In carcere comandano i detenuti e ogni giorno feriscono 3 agenti. Il titolo si giustifica con un dato, che dal 1 giugno è stato un crescendo di aggressioni contro la polizia penitenziaria. Tutta colpa dell'operazione celle aperte, che lascia i reclusi liberi di circolare per 8 ore. E i sindacati dicono che in particolare i detenuti stranieri sono completamente fuori controllo. Ci sono, come vi dicevo, dei numeri veramente, veramente inquietanti, anche perché c'è una carenza di organico cronica, perché gli agenti di polizia penitenziaria in servizio, ci racconta La Verità, sono 32.336, ma l'organico necessario è di oltre 41.000, quindi c'è un deficit di quasi 9.000 agenti. Invece qui purtroppo una notizia non così, anzi un altro dato triste, anche in questo caso è frutto di un rapporto, il rapporto zoomafia della LAV. Ogni ora viene maltrattato un animale. Brescia è la città più indisciplinata, con 449 procedimenti, 375 indagati. La città più virtuosa è Savona. Sono tra l'altro raddoppiati i combattimenti clandestini tra cani. Vi dicevo la questione delle auto, dell'industria dell'auto, che sappiamo per la Germania è importantissima. A pagina 16 il Fatto con Mattia Eccheli, fa questa inchiesta Dieselgate e politica, l'intreccio che fa sbandare la Germania. Lo scandalo delle emissioni truccate sfiora il partito della Merkel. La motorizzazione, che dipende dal Ministero dei Trasporti, avrebbe coperto i costruttori di auto che finanziano i partiti. I cinque maggiori gruppi sono accusati, come vi dicevo prima, di aver fatto cartello sulle soluzioni tecniche e i costi, e c'è una nuova indagine sulla Volkswagen. A proposito di caldo, ci sono naturalmente così cose di buon senso che possiamo fare noi umani per proteggerci, forse invece con gli animali dobbiamo usare qualche attenzione in più, e Oscar Grazioli, che sapete sul giornale si occupa sempre di animali, ci dà i consigli per in estate per salvare i cani. Soprattutto i cani soffrono il caldo, i gatti sono magari più, riescono meglio a trovare il punto dove avere meno caldo. Non basta il ventaglio, evitate di portarli in auto a lungo, acqua e aria condizionata sempre a disposizione. Anche qui un po' di buon senso, ma non guasta mai. Ora vi segnalo sulla prima pagina del Foglio, secondo me nei prossimi giorni troveremo anche altri articoli su questo libro. È un libro uscito in Germania, si chiama Finis Germania, che è una sorta un po' di, così, di forzatura linguistica latina, perché se veramente fosse in latino dovrebbe essere Finis Germanie, ma è fatto di proposito. E l'autore è Rolf Peter Sieferle, uno storico che si è suicidato nel 2016 quando ha saputo di avere un cancro in fase terminale. È un libro dove è una raccolta di saggi di questo storico, poco più di 100 pagine, dove si parla della crisi di identità della Germania e dei tedeschi. Tra l'altro Siefert, che era nato a Stoccarda, è sposato con la figlia di un rabbino. Questo non gli è bastato a evitare le accuse di antisemitismo e anche di razzismo. Quando invece, come a volte si fa quando si toccano questioni delicate, penso che adesso io non l'ho letto il libro, lo ordinerò su Amazon perché a questo punto sono molto curiosa. In ogni caso, in Germania questo c'è il caso, perché questo libro è un best seller in tutte le librerie e su Amazon, ma viene tolto dalle classifiche ufficiali perché appunto non sembra bello metterlo in classifica. L'articolo di Giulio Meotti, che trovate sulla prima pagina del Foglio e poi continua, è il pamphlet di un intellettuale suicida, sventra i tabù del senso di colpa tedesco, esplode il caso Finis Germania, il senso di colpa tedesco naturalmente, il senso di colpa che anch'io ammetto che ho sangue tedesco nelle vene, provo quando si parla dell'olocausto, della Shoah. Cioè qualsiasi tedesco di qualsiasi generazione ha dentro di sé questo senso di colpa, che sostanzialmente, sto semplificando estremamente, sostanzialmente questo storico diceva sarebbe ora di liberarcene, e da qui le accuse di antisemitismo e questa reazione, forse un caso veramente di estremo politically correct, di togliere addirittura, come censurare il successo del libro, perché di questo si tratta. Il libro è un best seller, ma è sparito dalle classifiche dei best seller ufficiali. Vi segnalo a proposito appunto di allargare un pochino gli orizzonti, dalle pagine interne del Corriere della Sera, pagina 15, India, la crisi del tè più prezioso. È la prima volta in 156 anni il Darjeeling, che è quel tè, quello di alcuni marchi, quasi sempre, non so perché, ma viene associato al colore viola o al colore azzurro, comunque credo che lo conosciamo tutti, lo abbiamo provato tutti soprattutto. Questa particolare varietà di tè che viene dall'India scomparirà perché i coltivatori sono in sciopero ed è crollata la produzione. Il termine Darjeeling, ci spiega il Corriere, deriva dall'unione della parola Dorie, che significa fulmine in tibetano, e Ling, che vuol dire luogo, terra dei fulmini, ed è il nome di un monastero che un tempo sovrastava la città. Bellissima questo racconto di Elena Dusi, invece a pagina 21 della Repubblica, il primo fiore del mondo. Le ricerche hanno appunto ci stanno spiegando quali sono stati in assoluto i primi fiori del mondo. Sbocciò 140 milioni di anni fa, era un po' ninfea e un po' magnolia. E c'è una bella illustrazione appunto dell'albero genealogico dell'attuale ninfea. Poi dalla Repubblica anche un'anticipazione per tutti gli appassionati, segnalo agli appassionati di Corto Maltese, il più famoso fumetto di Hugo Pratt. Beh, segnalo anche, spero mio padre sia in ascolto, lui è un appassionato di Corto Maltese, segnalo che la Repubblica dal 4 al 13 agosto pubblicherà una storia inedita di Corto Maltese, perché per celebrare anche i 50 anni del personaggio, che è nato appunto dalla penna di Hugo Pratt, che sapete dipingeva ogni tavola ad acquarello, quindi un lavoro totalmente artigianale, e tra l'altro scriveva anche i testi di questo fumetto, perché non sempre è così, a volte si lavora a quattro mani, qualcuno fa i testi, qualcuno fa i disegni. Ultimissima segnalazione prima di lasciarvi, un'intervista a pagina 23 ad Heike Schmidt, che è tedesco, ha 49 anni, è il direttore degli Uffizi da più di un anno, ha introdotto una serie di cambiamenti che hanno portato a quasi un raddoppio dei visitatori degli Uffizi, adesso un'ulteriore piccola grande rivoluzione, tariffe stagionali per regolare i flussi e dialogo con musica, teatro e danza, come già accade all'estero, ci saranno degli abbonamenti, soprattutto per i residenti, agevolazioni per i residenti a Firenze. E poi questa differenziazione: l'alta stagione avrà biglietti più cari, in bassa stagione un po' meno. Era l'ultima segnalazione per oggi. Grazie a Peter Bescapa in regia, a tutti gli ascoltatori, anche i più cattivi, tra virgolette. Buona giornata ancora da Giulia Crivelli, a domani.